so spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra. 30 gennaio 2016, Coxo Spaziale, inviato speciale per Radio Città Fujiko a Setup, e questa è la prima puntata della seconda giornata di Coxo Spaziale speciale at Setup, insieme al super mega ospite, e nonché investe anche W in novembre, tornata insieme a noi, non poteva mancare, Roberta Giallo! Eccomi! Qua però dovrei tornare qua ogni volta. Sì, devo fare un po' di robe con i volumi, sì, ma è molto, esatto. Tutto è molto toxico. Insomma, dicendo ciao, ho dei bellissimi microfoni arancioni. L'arancione è la spugnetta mia, questa qui, sentite. Simbolo anche un po', no? Di Radio Città. Sì, l'arancione, sono anch'io arancione, e arancione anche. Hai visto che ci hanno fatto quella cosa? Come si chiama quella cosa lì? Ci hanno fatto un coxo così. Siamo anche scattati una foto per memoria. Che da domani potrete vedere su www.coxospaziale.blogspot.com, ma anche sulla pagina Facebook di Coxo Spaziale, nonché sulla mia di Fedra Boscaro, o Boscaro per dir si voglia, e su quella della Roberta super mega coxi di Roberta Giallo. Che adesso non è in veste Cox, in veste W. No, adesso sono in veste ospite, basta. E però forse, chi lo sa, se ci mettiamo una bella parolina, magari ci resta anche in veste di co-conduttrice. Sì, dai, alla fine tutto fa brodi. E i brodi del Cox sono ben saporiti, soprattutto quando c'è Roberta Giallo! Ma allora, sì, qua ci sono dei volumi assurdi. Vabbè, noi andiamo avanti. Qua c'è anche un po' noi, sentiamo le parole del pubblico di Setup. Io. Voi non vedete la scena, ma c'è Fedra che sta sistemando il microfono e io seguo con la bocca il microfono. Ma te lo sta allontanando, no? Ah, ok, perché. Pensavo che avessi qualcosa da dire sulla mia postura, invece ero troppo vicina. Ah no, beh, perché prima te l'ho avvicinato, perché poi adesso passo anche. Sì, tu stai lì, poi smanetto io in avvicinamenti e allontanamenti. Comunque, benvenuti, bentornati, questo è sono le puntate del 30 gennaio, seconda giornata di Setup Art Fair e seconda giornata di programmazione speciale del Coxo. Siamo con Roberta Giallo che, nonostante ne sta facendo tantissime, e nonostante tutto è venuta qui a raccontarcene. Assolutamente, insomma, anche perché se ne faccio tante e poi non le racconto, mi rimangono come non fatto in espresso. Allora, io direi, sì. Cominciamo subito con il botto. Allora, sì, dicevamo, la puntata si intitola come la mia canzone, che è uscita insomma qualche giorno fa, ieri è uscito il videoclip, questa canzone si chiama Start. Ed è da lì che noi cominciamo questa trasmissione, perciò eccola a voi, no, in esclusiva per il Coxo, no, in esclusiva. No, no, però dai, è comunque un'esclusiva, voglio dire, sono qua, la posso presentare, poi mi potrei chiedere, insomma. L'ultimo brano di Roberta Giallo, sì. Start. Voglio conoscere l'umanità ed abbracciarla dall'antichità, vederne il bene e il male, chissà se questa civiltà si salverà. L'età dell'oro è lontana, ma ho la sensazione che la troverò, per guardarla in faccia e portare con me il ricordo di un mondo che adesso non c'è. Viaggerò dentro un tempo infinito. Questi 30 anni hanno aperto una via e dico addio ad ogni mia nostalgia. Camaleontica mi muoverò dentro un inverno che estate ora so che avrò bisogno di ognuno di voi, perché il coraggio non mi manchi mai. Datemi amore e fiducia così che inizi il viaggio e poi ritorni qui e viaggerò. Dentro un tempo separarmi dal mondo apparente, ho bisogno di credere in me, così sia. Ma che meraviglia, Roberta, ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Che poi io stamattina sono andata a vedere il video, l'ho visto dal telefonino perché ero un super viaggio. Mi devi raccontare un sacco di cose rispetto a questo... Ma diciamo che questa canzone era un pezzo che era nato già forse un paio d'anni fa, almeno la struttura, la base, perché diversamente da come faccio in genere, cioè che compongo le mie canzoni piano voce, mi trovavo nella soffitta di un amico che vive a Gambettola, in Romagna, insieme a un altro mio amico che era lì con me, si chiamano uno Filippo Francesconi e l'altro Nicola Bonazzi, e Nicola Bonazzi prese in mano questa balalaica che era lì un po' per caso, senza saperla suonare, e mentre noi parlavamo, mentre lui giocava con questa piccola balalaica, a un certo punto dico: ma cosa stai facendo? Che sentì delle note, ho usato un passato remoto perché è lontano, mi dico: ma che meraviglia di note, cos'è questa cosa, fissa, la registriamola. Quindi lui registrò questo riff, per lì era in questo studiolo a Casalingo, Filippo mise una base, cioè diciamo una base, un beat, e su questo beat poi io immediatamente scrissi melodia e subito dopo testo. E è un pezzo a cui tengo molto perché diciamo ho curato poi tutti gli arrangiamenti in assoluta libertà, quindi è proprio una cosa che ho visto nascere, l'ho scritta e poi allo stesso tempo ho seguito anche l'arrangiamento, quindi per me è stato un nuovo esperimento curare anche l'arrangiamento. E poi niente, è una canzone diciamo libera, nel senso che non è stata, come dire, poi editata e post editata affinché convincesse qualcuno. Ne intuisco da sola forse la natura un po' spirituale, insomma, è un po' un mantra questo pezzo, insomma, infatti si chiama Santo, lo vedo come un inizio di qualcosa, la chiamo canzone ma erroneamente, per me non è una canzone, potrebbe essere una parte, l'inizio di qualcosa che deve continuare, quindi uno start. E questa cosa secondo me si riflette nel video, vogliamo dire due cose, certo, anche? Allora, il video è intanto girato a Parco Talon. Noi abbiamo dei meravigliosi parchi a Bologna, per chi non lo sapesse già, bisogna dirlo, Villa Spada, Parco Talò, insomma, Parco Talò è meraviglioso, enorme, abbiamo pensato io e Mattia Pace, che è il regista del video insieme a me, di andare a girare in un luogo appunto, anche come posso dire, essenziale, come un parco d'inverno. E diciamo che anche è stata una scoperta girare questo video, perché siamo andati lì senza in realtà avere la stesura di una sceneggiatura, ma è stato come scoprire dei luoghi del parco a noi sconosciuti, e di tanto in tanto che trovavamo un luogo che ci affascinava creavamo lì la scena. Poi c'era un'altra, insomma, la seconda camera, Laura, che ringrazio, e nel freddo di dicembre sono morta praticamente con quel leggero kimono, abbiamo girato tanto, rischiamo di morire assiderata, ma queste altro per l'anno. E beh, qua ci metto anche lo stacchetto. Sì, vai. Ma stiamo andando troppo veloci. Troppo bravi. Ma siamo troppo efficienti. Ma che cos'è questo? Se poi ci rimane tempo. Sai per me che cos'è? Cos'è? È che l'altro giorno ero in trasmissione da William Piana. Sì. Per parlare di Radio Città Fujiko, per parlare di questa esperienza setup. E quindi lui che parla, cioè è il mio mito, è il mio maestro della radio, ha un'impostazione, un diaframma, una velocità, non si impapera mai, è meraviglioso. E quindi mi è rimasta un po' attaccata questa cosa che... Ah, hai trasmesso questo genere della perfezione. Sì, però mi sa che dovrò tornarci molto presto perché... Beh, sei contagioso, insomma, non venga. Comunque, quindi, start. Ragazzi, facciamo quello slogan, insomma, lo trovate su tutti i digital store, a vari iTunes, Amazon, bla bla bla, e poi trovate il video appunto su YouTube. YouTube, girato a Cotaron, dai, un video insomma in cui ci siamo lanciati anche stavolta, insomma, per cercare di raccontare qualcosa, ecco, insomma, con grande libertà abbiamo girato anche questo video. E tu di cose ne racconti tante, specialmente negli ultimi mesi. Io ho avuto la fortuna, la fortunissima di averti come co-conduttrice occasionale per il mese di novembre, e quindi ti ho vista con continuità, ma poi sparita per moltiplicarsi nell'etere. Ma diciamo che quest'anno, appunto, sono i vari inizi di quest'anno, ho voluto in qualche modo mettere proprio radice a Bologna in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non tanto per me e basta. Cioè, io sono una cantautrice, insomma, faccio anche teatro, bla bla bla, però mi interessava a Bologna ridare uno spazio ai cantautori. Già questa cosa era iniziata con The Dark Side of the Music, questo spettacolo, insomma, sulla retroscena della musica, in cui tra ironie eccetera raccontavamo, insomma, la retroscena della musica italiana. Ma adesso, diciamo, a Bologna da gennaio sono partite due rassegne, una a Bravo Caffè, anzi vi aspetto martedì 2 febbraio a Bravo alle 9:30, e l'altra rassegna invece al Social Caffè del Velodromo, al Parco del Velodromo, ogni secondo e quarto giovedì del mese. Quindi ho queste due rassegne che si intrecciano, perché al Bravo c'è il martedì giallo, appunto, ogni primo e terzo martedì del mese fino all'estate, invece al Velodromo Social Caffè c'è il secondo e il quarto giovedì del mese fino all'estate. Di che cosa si tratta? Esatto. Adesso faccio anche qua. Esatto, mi era partito il volume del microfono. No, mi sta a cuore, come ho già detto, la questione cantautori, perché oggi, insomma, abbiamo questi talent, abbiamo gli spazi della musica ci sono, però sono un po' monopolizzati, ma senza essere polemica, perché credo che, insomma, la musica deve esistere a tutti i livelli, da quello televisivo a quello, però i cantautori dove sono? Insomma, allora, in una città come Bologna, che in passato era stata proprio la culla dei cantautori per eccellenza qui in Italia, credo, insomma, che questa città abbia bisogno di conservare questa culla. E quindi ho proposto, insomma, a Max Catoli del Bravo Caffè di fare questa rassegna in cui io invito cantautori e cantautrici ogni due martedì al mese ad esibirsi. Quando è il prossimo? Quindi è proprio il prossimo. Ci saranno due cantautrici donne, una vicentina e del Ghiotto e l'altra Giulia Rivari, bolognese, e poi ci sarò anche io per rappresentare. Mi esibisco anche. E per fortuna, perché Roberta Giallo più ce n'è meglio è. Anzi, sei invitata, l'ingresso è libero, quindi, insomma, si può venire, se chi vuole può prenotare la cena, chi vuole prenotare la cena, può bere un drink, chi vuole venire, va, insomma, ampia possibilità, però è veramente qualcosa che merita. Abbiamo debuttato, insomma, due settimane fa, è andata alla grande, insomma. E sono contenta. E poi ti dico, c'è una cosa simile, però più di dimensioni, come dire, più ridotte, perché mentre al Bravo ospitiamo anche le band, quindi le formazioni sono più, invece al Velodromo Social Caffè invito il cantautore e il suo strumento a raccontarsi, e questo ogni secondo e quarto giovedì del mese. Quindi, ragazzi, se volete la musica inedita dei cantautori, seguitemi e venite al Bravo, venite al Velodromo, perché, insomma, Bologna ha bisogno. Io nel testo che accompagna e che accompagnerà, che accompagna l'anticipazione, che poi accompagnerà il link per ascoltarsi, sì. Questo rap coxo dura, ma mi sono un po' impasquinata. Ti ho fra l'elenco delle varie tue specificità ho anche messo iniziatrice di format. E allora prendiamo una piccola pausa, ascoltiamo quella che è la gemma, che è il mio brano preferito del 2015 e che è stato anche, appunto, che era la sigla di uno di questi format, anche quello in qualche modo legato al cantautorato, più a livello nazionale, se vogliamo. Sì, diciamo che lì è un po' una presa in giro, ma ripeto, senza cattiveria. E ne parliamo poi dopo aver ascoltato Fuliggine con Paolo Pier Mattei. E ti fanno i complimenti, ah, e ti danno consigli finti, ah, c'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuliggine, questo è solo fuliggine, ah, scarafaggio. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo, né sfigato né finocchio. Occhio. Fuliggine, questa è solo fuliggine. Bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua, ha tirato fuori l'arma. Metti qui una bella firma. Questa è solo fuliggine, ah, ah, ah. Fuliggine, resta solo fuliggine, ah, ah, ah. Oh, leggimi il labiale, io non sono un cantautore. Io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembri un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuliggine, questa è solo fuliggine. E questo era ed è il mio brano preferito, fra l'altro inedito per il Coxo, che io continuo a trasmetterlo da brava, che mi ha dato l'ok, sempre. Fuliggine, sì, Roberta sì, Giallo, sì. Paolo Piermattei, sigla del format. Sigla del format di Dark Side of the Music, che non c'entra con i Pink Floyd, ma con il retroscena della musica italiana. E su questo ci agganciamo, perché abbiamo sì. parlato di te come cantautrice, di te come ideatrice di format, ma Roberta Giallo non si esaurisce mai in un no. certo modo, si reinventa. Io la prima volta Speriamo. L'ho conosciuta con un suo alter ego proprio in una di queste manifestazioni fieristiche. All'Arte Fiera eravamo, di sì. 3 o 4 anni fa. Quando io iniziai con sì. i miei esperimenti radio, Elia Media. E allora sai che cosa, visto che c'è anche sì. la performance, l'arte, e qui abbiamo pure un personaggio che approfittiamone, passa di qua e di là dai confini del teatrale, performativo e dell'artistico, specialmente nell'ultima come nell'ultimo periodo, come scopriremo poi nella prossima puntata, dove sta tu sarai co-conduttrice. Si sta creando, perché non avendo sentito il nome, prestato in co-conduzione coxica, e abbiamo Michele Pascarella in veste W eccezionale. Ciao. E quindi passo sì. a te, mio caro. Sì, sì, guarda, Roberto, io proprio ho una curiosità. Tu prima hai raccontato qualche cosa in merito alle tue tante attività musicali, sulle quali evidentemente tanto di più ci sarebbe da raccontare e da dire. Ma insomma, però appunto su questo Dark Side a cui hai sì. accennato, ecco, mi piaceva proprio anche per legarsi a tutte queste vicende sulle arti visive di fine gennaio, Arte Fiera, Art City, Setup Art Fair, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, questo tuo lavoro rispetto alla parte visuale sì. di scenografie, molto legato anche al digitale, sì. ecco. Ci puoi raccontare un pochettino come lo hai creato, pensando alla tua doppia, chiamiamola così, anima di musicista sì. e di artista visiva, e quindi come lo hai creato evidentemente in relazione al suono e alla musica? Sì, ma allora tendenzialmente a me piace l'idea di collegare le arti, no? Cioè la sinestesia, come dire, parlare attraverso linguaggi diversi. E qui Wagner sarebbe contento. Eccoci qua. E diciamo beh, che Roberta Giallo è wagneriana. Eccola qua. L'altra autrice wagneriana con noi. Eccola qua. Detto voi. No, e quindi cosa succede? Che tendenzialmente mi piace, come dire, appunto, unire i vari linguaggi. Nel caso di questo format teatrale, diciamo, non avevamo uno scenografo vero e proprio, e diciamo che trattandosi di uno spettacolo molto moderno, che in qualche modo rappresenta la realtà dei reality, della TV, della televisione, ho pensato che in qualche modo l'arte visuale, visiva, che poteva accompagnare questo spettacolo potessero essere i miei disegni digitali. io disegno anche su carta, piuttosto uso quadri, insomma tecniche miste, però ultimamente, anzi già da diversi anni, adoro utilizzare il mio iPad. E lo chiamo finger drawing on iPad perché disegno proprio con le dita sull'iPad. C'è un programmino che mette a disposizione, non per far pubblicità alla Apple, però insomma. Ecco, ma senti Roberta, visto che in radio è sempre difficile immaginare le cose, certo, da vedere, diciamo, che è una difficoltà, vabbè. Ma questi disegni con le dita che tu fai, come diciamo, che aspetto hanno? Ma per immaginarsi? Non so se qualcuno conosce Fucci, fumettista, oppure diciamo che è più facile per me utilizzarli in modo anche lì essenziale. Sono, diciamo, assomigliano un po' a dei fumetti, perché mi permette in qualche modo, utilizzando questa tecnica, di elaborare velocemente tanti disegni. Sono sì disegni molto essenziali. In bianco e nero, giusto per immaginare. No, anche colorati. Non so, fare un esempio, adesso mi viene in mente Fucci perché lo adoro, perché ha dei tratti molto definiti e dei colori molto compatti, insomma, no? Non sfumature. E allora facciamo così, però intervengo. Cliscia bisogna nominare. Cliscia Bobo Pigamago. Esatto. Come? Cliscia Bobo Pigamago, che è il primo alter ego di Roberta, tramite cui l'ho conosciuta appunto ad Arte Fiera tanti, sì, anni fa, che c'è entrata in una trasmissione che realizzavamo insieme ad altre, sì, colleghe, che si chiama Hotel Lo Sphere. Sì. E poi successivamente ho incontrato invece, diciamo, l'originale, ma in, sì, realtà sono tutte originali. Diciamo che però purtroppo Il tempo qua, insomma, sappiate che esiste Cliscia Bobo Pigamago, che era l'alter ego con cui firmavo le mie opere visive, per non mischiare troppo le carte. Adesso invece sto portando tutto verso Roberta Giallo, però in realtà c'è quest'anima che, insomma, fa arte visiva, che si chiama Cliscia, più semplicemente. Abbiamo un ultimo che non c'è. Cioè, un'ultima cosa, mi sono felice sapere, che... per curiosità, Roberta, ma queste opere di arti visive, diciamo così, vivono anche di vita autonoma e propria, o sono, sì, sì, in assolutamente questo momento legate esclusivamente alle tue produzioni musicali? Assolutamente, diciamo che io ho fatto anche qualche mostra, la Biennale di Verona, insomma, quello è stato l'evento più importante. Poi qui a Bologna ho esposto in qualche locale, e poi vabbè, su internet c'è il sito di Cliscia Bobo Pigamago, dove si possono vedere varie opere, sia digitali che non. Diciamo che ultimamente, proprio perché sto facendo molti concerti e mi piace l'idea di portare in teatro quando posso, ma non solo, anche al Bravo Caffè porterò questi miei disegni, se ce la faccio stavolta. Diciamo che ho unito le cose, ma in realtà Cliscia poi ha una vita autonoma e aveva anche una poetica vagamente erotica, insomma, ha attraversato varie fasi. E adesso io, d'ora in poi, quando ti presenterò sempre come la wagneriana Roberta Giallo. Me l'avete detto voi, eh. E su questa nota di globalità, di totalità, purtroppo devo ma salutarti. Ma io saluto tutto il pubblico, ringrazio Michele, ringrazio te Fedra, insomma, come sempre è stato bello essere qui, e grazie. E grazie per essere stata la super mega protagonista della prima puntata della seconda giornata degli speciali del Coxa Setup. Grazie. Ciao. Speciale eccezionale. Se tu setup speciale, corso spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra.